avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le vin de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà la femme bye. Ma ça fait déjà non esistono più i cattivi. Dove sono finiti i cattivi? Non c'è più nessuno che sia cattivo. Guardate, i grandi delitti che sono sempre stato la scaturigine più feconda della cattiveria non ci forniscono dei veri cattivi, degli assolutamente cattivi, dei cattivi senza ombra di dubbio. Tutti, anche lo zio di Avetrana non è cattivo, non si sa. C'è un dubbio, sarà o non sarà. Anche presunti assassini passati attraverso tutti i più spettacolari processi televisivi non sono cattivi. Chi se ne torna in America e farà un film, farà una fiction, chi viene assolto nuovamente, quando erano tutti convinti, perlomeno perché la macchina produttrice di cattiveria che tanto ci conforta e tanto ci fa sentire buoni, come tali l'avevano confezionati, non sono più cattivi. Sono mezzi cattivi, sono cattivelli, sono cattivi ma sotto condizione. Sarebbero forse cattivi, potrebbero essere dei presunti cattivi, ma il vero cattivo, l'indissolubilmente cattivo, il cattivo inossidabile, quello che ci fa paura perché è cattivo, sappiamo che non avrà pietà di noi, non avrà nessun tipo di commiserazione, di debolezza, tenerezza, perché è radicalmente cattivo, dov'è finito? Voi avete nella mente un vero cattivo, un radicale cattivo, un totale e spietato crudele, crudele in quanto gratuitamente crudele, non crudele perché è stato orfanello, non crudele perché è stato violentato da piccolo, non crudele perché ha fatto la fame, non crudele perché ha visto fare atti immondi nei propri più stretti familiari, crudele perché è cattivo, perché nasce gente cattiva, perché ci sono persone radicalmente cattive, perché la cattiveria esiste, la gioiosa, totale, radicale cattiveria, immotivata cattiveria, che si autoalimenta del piacere di essere cattivo. Ma dov'è finita oggi? Avevamo qualche esempio pallido nella politica, c'era un cattivo per eccellenza, adesso che non se ne parla più non c'è più nemmeno il conforto di avere quel punto di riferimento di cattiveria, di abiezione, di degradazione, non c'è più nemmeno quello. Ma dov'è finito il cattivo? Avevo qualche barlume di speranza questa mattina guardando i giornali, trovata abbandonata nelle scale di un condominio a Brescia una valigia con un indiano fatto a pezzi dentro. Un indiano, poverino, un piccolo indiano fatto a pezzi con un coltello e messo dentro la valigia. Quanto sarà cattivo quello che l'ha fatto. Ma vedete che poi sarà sicuramente qualche circostanza per cui c'è stato un motivo di qualche discrepanza sociale, di qualche trauma infantile e di qualche errata conduzione adolescenziale per cui la persona che ha preso quel povero piccolo indiano, l'ha fatto a pezzi con un coltello, l'ha messo con una valigia, non sarà poi cattivo. In fondo poteva essere anche recuperabile, anche buono. Io non sono una persona che con questo invoca lo sterminio del cattivo. Vorrei finalmente poter avere almeno un punto di riferimento senza dubbi, senza se, senza ma, di cattiveria per potermi sentire ogni tanto anche io un po' più buonino. Come fa a decidere di ammazzare un innocente? Un innocente? Chi? Chi è innocente, Wayne? Tu lo sei? Innocente? Ah sì che lo sono. Di omicidio lo sono certamente. Beh, penso che tutti hanno qualcosa nel passato, qualche segreto, un orrendo peccato tenuto nascosto. Un sacco di gente là fuori è già morta e non lo sa e ha bisogno di essere liberata. E a questo punto arrivo io, il messaggero del destino. Se un giorno un chicco di grano cade nel terreno e muore, non è poi così grave, ma forse morendo, lui porterà con sé molti frutti. E cos'è questa, mi scusi, la teoria per cui ognuno di noi è un assassino potenziale, intende questo? Un lupo non sa perché è un lupo, un alce non sa perché è un alce. Dio li ha fatti così e basta. Tutti quanti hanno il demonio dentro, ok? Il demonio vive dentro di noi. Lui si nutre del nostro odio, ferisce, uccide, violenta. Sfrutta le nostre debolezze, le nostre paure. Solo ciò che è malvagio sopravvive. Bravo! Tutti noi sappiamo bene lo schifo che siamo da quando cominciamo a respirare. Ha ragione. E così dopo un po' si diventa cattivi. E comunque conosco un sacco di gente che merita di morire. 800240024. Chi per voi è il cattivo per eccellenza? Lo splendido, totalmente cattivo, che non ha nessuna scusante, nessuna attenuante, di cui nessuno prenderebbe mai le difese, di cui nessuno direbbe, beh sì, forse, però anche, potrebbe essere in fondo un lato buono. Il cattivo assoluto. È mai accaduto nella vostra esistenza che vi foste mai sentiti, anche soltanto per un pallido ma indimenticabile istante, la vostra esistenza cattivi assoluti? Che avete compiuto un gesto di totale, gratuita cattiveria. Di confronto una persona non vi aveva fatto nulla, perché se la cattiveria è motivata da un oltraggio, da un'offesa, da un'ingiustizia, è una cattiveria, già entriamo nel territorio limaccioso della giustificazione. E cattiveria potrebbe essere giustificata, una volta cattiveria è gratuita, totale. Vedi una innocua vecchietta che sta per attraversare la strada, che non ti ha fatto nulla, tenera, carina, per nulla irritante, gentile, prendila, spingi sotto una macchina, perché così, per il piacere di sentire la macchina che ci passa sopra. Questa è pure cattiveria. Esiste qualcosa di assimilabile? 800 24 00 24. Gianandrea, subito un ascoltatore, poi passeremo alla confezione di quello che avete appena sentito. Gianandrea, velocemente. La cattiveria esiste. La cattiveria esiste nel momento in cui io ho la consapevolezza di dare un danneggiamento. Non forte. Teorizzi, vado a un esempio pratico. Ha avuto mai un istante in cui ha toccato la cattiveria? Altro che. È merita uno. E la tocco. Non vorrei entrare nel merito. No, ma me lo dica, sennò siamo qui per entrare nel merito. Ma sa, quando la moglie ha la possibilità di scegliere, ha scelto ciò che ti fa male, questa è cattiveria. Eh no, ma è giustificato, si è rotto le palle di lei, è una cosa giustificabile questo. E non è assolutamente dovrebbe essere un gesto ancora più assoluto, capito? Dovrebbe averle fatto qualcosa nel momento di sua massima dedizione, se no non è giustificabile, non è cattiva, fa una scelta opinabile, a lei non avrà fatto piacere, ma la vera cattiveria dovrebbe, non so, entra, le taglia una mano, dice: perché me l'hai tagliata? Perché avevi le unghie sporche. Ma anche questo è giustificato, non basta. Alberta. Buongiorno Nicoletti, io volevo dire che un vero cattivo io lo identifico con Izzo, l'assassino del Circeo. Sì, si avvicina, è vero, è giusto. Izzo, perché lui sì. Ha ammazzato senza motivo. Ha riammazzato. Ha riammazzato, certo. Senza motivo. Per cui lui è il vero cattivo, a mio avviso, voglio dire, non è nemmeno giudicabile una persona del genere, perché nel fondo di questa persona esiste solo la mera cattiveria. Anche gli occhi da allucinato. Occhi da allucinato, parla da allucinato e dice cose. Ricordo una memorabile trasmissione televisiva della Rai in cui descrisse come aveva poi ucciso una madre e una figlia per nessun motivo, così l'avevano stufato, l'ha presa, l'ha messa nella calce, l'ha sotterrata con le spalle. La ragazza del Circeo l'ha sbattuta in un portabagagli. Sì, ma questo anni dopo, quando già era considerato redento, già era considerato recuperabile, già stava in una comunità, ha nuovamente riucciso. E nonostante questo, poi c'è stato chi l'ha sposato, chi ha detto di amarlo e via dicendo. Sì, si avvicina molto. Giuseppe Sanzonna, buongiorno. Buongiorno. Di cosa abbiamo sentito all'inizio? Perché nella storia del cinema esiste in realtà l'idealizzazione e la creazione del cattivo assoluto. Nella società è molto difficile, ma nel cinema esiste. Nel 1994 Oliver Stone brutalizza, rielabora una sceneggiatura di Quentin Tarantino e crea Natural Born Killers, che è un road movie rutilante, avant pop, in cui questi Mickey e Mallory Knox, ovvero Woody Harrelson e Juliette Lewis, compiono questo viaggio lasciando la scia di sangue per l'America, inseguiti dalla macchina mediatica di Wayne Gale, che è Robert Downey Jr., che li filma e li trasforma in rockstar. Cioè, la macchina industriale del cinema guarda dall'interno appunto la rielaborazione degli assassini come star mediatiche. Però anche lì c'era, diciamo, una via di scappatoia. Lei era stata violentata, aveva assistito una violenza da bambina, c'era qualcosa. È stata violentata dal padre, dato è un sosia di Pacciani. Nel film è identico a Pacciani, l'attore che interpreta il padre di Juliette Lewis nel film. È incredibile, che è la rappresentazione concreta della cattiveria nell'Umarell. Certo. L'innocente pensionato in realtà potrebbe far di tutto. Da Scandicci, cioè il contadino di Scandicci. Poi vedi anche su Pacciani, c'è dei dubbi. Certo. Sarà, non sarà. Ormai è stato accertato il vamp. Però appunto in Italia c'è sempre questa dimensione un po' provinciale. Lui era uno che nelle fiere di paese si dava fuoco alla faccia, veniva deriso e poi compie questi gesti. Insomma, tutto trasuda in una dimensione molto, molto domestica. Invece queste due star americane acquisiscono appunto lo status di rock star, hanno il glamour, il fascino anche sensuale di essere degli assassini, che appunto nel finale, sulle note di Leonard Cohen, Cohen si trasformeranno, dopo aver ucciso in una sorta di snuff movie improvvisato il giornalista che li tampina, diventeranno una famigliola felice andando via sulle note di Future di Leonard Cohen con questo camper e con dei figli. Insomma, c'è una sorta di rovesciamento. Sì, perché il cattivo piace molto. C'è un fumetto dei Simpson in cui uno dei più innocenti e innocui personaggi, il loro vicino di casa, passa per un serial killer e fuori della... dice, a un certo punto si scopre l'inghippo, stanno per liberarlo, dice no, non voglio più uscire di galera, perché sotto la galera c'era un nugolo di signore della cittadina di Simpson arrapatissime che sognavano di andare con lui nella roulette degli incontri. Ned Flanders, pare Ned Flanders, sì. Tanto quando viene incarnato il demonio dei Simpson, sì, alle sembianze di Flanders, che è il più cattolico, il più... Quindi solo quando diventa cattivo diventa oggetto appetibile del desiderio. Giorgio, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Io no, parlerei solo di un cattivo cinematografico, mi viene in mente il cattivo di Bastardi senza gloria, quindi Tarantino. Non tanto per il solito nazista sadico, ma per la faccia da buono che aveva l'attore appassionato di musica lirica. Era un grande attore di teatro, infatti. Sì, infatti, sì, un attore austriaco. Sentiamolo un attimo, sentiamolo un attimo. Monsieur Labadite, il tratto che fa di me un così efficace cacciatore di ebrei, io so pensare come un ebreo. Se si dovesse determinare quali attributi gli ebrei condividono con una bestia, sarebbero quelli del ravatto. I ratti ne hanno fatto qualcosa per creare l'animosità che sente nei loro confronti. Diffondono le malattie, mordono le persone. Io penso questo. Le malattie diffuse dai ratti possono essere diffuse anche dagli scoiattoli. Eppure immagino che non nutra per gli scoiattoli la stessa animosità che ha per i ratti. No. Eppure sono entrambi roditori, no? E a parte la coda, si somigliano perfino, no? Non sa bene perché non le piacciono, sa solo chi li trova ripugnanti. Di conseguenza, un soldato tedesco perquisisce una casa in cui si sospetta si nascondono degli ebrei. Dove guarda il falco? Guarda nel fienile, guarda in soffitta, guarda in cantina, guarda ovunque lui potrebbe nascondersi. Questa è una delle scene iniziali, Bastardi senza gloria, in cui entra nella famiglia di contadini che avevano nascosti degli ebrei sotto. La vera chiave di questo film è la lingua originale, ogni volta cambia il tono, qui parla un francese fatto apposta per far capire la differenza con queste persone con cui sta parlando, poi farà uccidere tutti, massacrare tutti, e questo è un cattivo assoluto. Christoph Waltz è strepitoso perché riesce a giocare attraverso la regia, la sceneggiatura di Tarantino, con tutti i cliché della gelida perfidia del criminale nazista visto attraverso decenni di cinema dedicato a lui, però dall'interno ne scava una sorta di ironia, cioè lo mostra anche nel suo distacco rispetto al suo stesso personaggio, un'operazione già tentata e con successo da Vincent Price, insomma il cattivo che mostra anche il compiacimento della cattiveria. Poi il cattivo deve essere raffinato, geniale, avere tantissimi talenti, avere, che è tipico dell'estetica nazista, anche una sensibilità raffinatissima, con la stessa leggerezza con cui ascolta una musica, riesce a uccidere senza pietà una persona, faccia parte comunque di un certo spirito. Giorgio è d'accordo, quindi questo è un cattivo assoluto? Sì, perché a differenza dei soliti sadici nazisti che erano più malati che altro, questo era proprio cattivo, ecco. Quindi era una persona anche di intelletto, allora mi aveva colpito. Vabbè, era la chiave insidiosa del nazismo, che fa pensare quasi che ci fosse una giustificazione etica, assoluta, cosmica a quello che si faceva. Era giustificato in quanto era la maniera più veloce per raggiungere una sorta di perfezione di civiltà esteticamente giustificata proprio da questa cosa qua. Anche se nel finale il personaggio denuncia un trasformismo molto italiano, sì, perché si vende subito a Brad Pitt, insomma capisce che il vento è mutato, fa una telefonata e molla tutto. Raffaele. Sì, buongiorno. Eccoci. Io brevemente volevo raccontare la mia esperienza sulla cattiveria. Da quello che ho sentito in radio, indubbiamente l'effetto della cattiveria quando ci scappa il morto e va bene così, tra virgolette. La mia esperienza sulla cattiveria è, la posso raccontare brevemente, è dovuta ad una cattiveria sul fattore psicologico, nel senso che il mio capo del personale, per esempio, continuamente assume un comportamento da cattivo, da lupo mannaro, nei confronti di quasi tutti i lavoratori. Ma guardi, scusi, la formazione di un responsabile delle risorse umane, questo deve essere, se fa l'agnello, cannibalizzare il personale. Sì, io la posso. Non esiste la gestione umana delle risorse umane, si chiamano umane proprio per quelle che ci vuole la persona disumana per gestirle. fino a un certo punto. E pone la, quando... la risorsa umana pone la sua differenza in quanto umano rispetto alla disumanità di chi le gestisce, se no non si chiamerebbero risorse umane gli esseri che sono dipendenti di un capo del personale. Questa è il capo del personale deve essere un disumano, assolutamente. Sì, ma disumano nel sollecitare e nello stimolare i suoi dipendenti. Lei tocca con mano la disumanità. Subisce anche da te. La subisce, sì, ma è giusto questo. Paolo. Buongiorno. Lei sente cattivo? Sì, io sono abbastanza cattivo, almeno cosa mi dicono. Poi, facendo un'analisi di me stesso, dico che alcune volte sono veramente cattivo. Ma mi dica la cattiveria più atroce che ha compiuto nella sua vita. Ma io praticamente ho un carattere, la classica faccia d'angelo, no? È un carattere che vado d'accordo con tutti e tutto, mi raccontano le confidenze e poi a me piace tanto manovrare le confidenze di uno con l'altro, mettere bisticci tra una persona, tra un'altra. Ma semina un po' di zizzani, mondo... lo fa qualunque massaia di condominio. Sì, un po' meschinella. Non c'è. Questa è cattiveria. Vai, lei è un dilettante la cattiveria. Qual è la cosa più grossa che hai perso a testa o croce? Scusi? La cosa più grossa che hai perso a testa o croce? Non lo so, non saprei dire. Scegli. Scelgo? Sì. Per cosa? Scegli e basta. Beh, dovrei almeno sapere che cosa c'è in ballo. Devi scegliere tu. Non posso scegliere io per te. Non sarebbe onesto. Ma non mi sono giocato a niente. Sì, invece. Te lo stai giocando da quando sei nato, solo che non lo sapevi. Sai che data c'è su questa moneta? No. 1958. Ha viaggiato 22 anni prima di arrivare qui. E adesso è qui. Ed è o testa o croce. E devi dirlo tu, scegli. Senta, devo sapere che cosa posso vincere. Tutto. Come, scusi? Puoi vincere tutto, scegli. Va bene. Testa, allora. Ben fatto. Non la mettere in tasca, amico. Non la mettere in tasca, è il tuo portafortuna. Questo è un vero cattivo, devo dire. Il protagonista cattivo di Non è un paese per vecchi, questo serial killer con i capelli alla Marzullo che uccide con una specie di pompa a pressione, non so come, c'ha una bombola di gas una bombola di ossigeno che dovrebbe essere datrice di vita, invece diventa paradossalmente datrice di morte in questa sorta di nemesi incarnata. E qui siamo vicini a quello che idealizzavi tu, cioè il male puro che non ha motivazioni da naturalismo francese, da romanzo dell'Ottocento positivista. Cioè, questo è cattivo molto. Non c'è nulla nella sua memoria che giustifichi. Lui è come raccontava Pazienza quando parlava di Zanardi, è come quando si entra in una galleria buia, cioè il buio, quello è il male, e lui è il male puro che sciama appunto attraverso l'America e compie anche questi omicidi rituali. Qui si gioca la vita. Sì, il male è opaco, come diceva un grande poeta, è proprio opaco, non puoi vedere attraverso il male, se vedi attraverso già filtra un barlume di luce e di speranza. Il male è opaco, è una persona opaca che è cattivo e basta. Sì, appunto, e si presenta come nemesi, non ha giustificazione, non ha scardina un po', forse diventa una sorta di bubbone, di sintomo dei tempi, nel caso del film dei fratelli Coen, che appunto denunciano un film che non è più un paese, che non è più per vecchi, non ha più i vecchi valori che sono in disfacimento. Poi c'ha di bello questo cattivo, che il cattivo è quasi invulnerabile, non avendo punti deboli, perché la debolezza è data dalla pietas nei confronti del mondo, è molto difficile sopprimerlo, perché ha sempre una risorsa in più, perché tu avrai sempre un istante, un attimo di tentennamento, di ripensamento e di umana perplessità. Lui non ne ha nessuno, perché è puramente cattivo. Alberto. Sì, piacere. Chi è cattivo? Ma io stavo riflettendo su questo, sentivo le varie cose e pensavo a quelle persone che mettono questi pasti avvelenati, questi bocconi avvelenati per gli animali. Mamma mia, ma è un immaginario da gattara, ma può pensare che la cattiveria sia avvelenare, è una cosa atroce, ma può pensare di fronte agli stermini che si fanno di esseri umani, di atrocità nei confronti dei bambini, è sì, è una cosa io direi entra più nelle psicosi, nelle malattie psichiche. Ammazza un gatto, è un malato di mente, secondo me non c'è nessun motivo per farlo. Ma proprio lasciare questi bocconi, che poi cioè, può esserci chiunque che possa avvicinarsi e trasmettere. Sì, però questa è l'ossessione della gattara, c'è sempre qualcuno che attenta ai gattini. Ci sono anche persone che probabilmente non ne possono più dei gatti intorno a casa loro, che ne so, ma comunque non è giusto. Ti stai autodenunciando? No, no, assolutamente, mai toccherei l'innocenza di un animaletto a quattro zampe. Però considero più queste persone, più che cattivi, persone che hanno qualche problema. Sì, di solito chi infierisce contro il gatto, contro il cane, sì, la meschinità, sono persone che hanno dei problemi con gli esseri umani, quindi hanno una sorta di... non hanno nemmeno la gloria della pura cattiveria. Se sei veramente cattivo, se ce l'hai veramente col mondo, prenditela con qualcuno che è come te, no? Con un gatto che alla fine, sì, che ci vuole a schiacciare un gatto con la macchina o avvelenarlo. Una cosa stupidissima, cretina. Però non mi fermerei, perché guardi, emotivamente, chiaro, se lei guarda su Facebook è pieno di immagini di cagnolini, di gattini massacrati, dicendo dove andremo a finire, ma è una consolazione residuale. Ma c'è anche il compiacimento in questo, sì, sono più perversi di quegli altri. C'è il compiacimento gattaro nel mostrare la carogna del gattino scarnificato, guarda quanto è cattiva l'umanità. Sadismo ma mascherato e per crociare il sinismo. Sentirsi tutti buoni, in realtà c'è un compiacimento sadico profondo. Noi siamo molto peggio dei nostri ascoltatori. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Prendi il brodo da bravo bambino, avanti. Un altro sorso. Non è molto buono, vecchio mio. Ammetto di aver aggiunto qualche ingrediente al tuo. Forse stona il cumino. Ma ti assicuro che la prossima portata è da morire. No, dottor Lecter. Vedi, il cervello in sé non sente dolore, Clarisse, se è questo che ti preoccupa. Per esempio, Paul non sentirà la mancanza di questo pezzetto, che è parte del lobo prefrontale, che dicono sia la sede delle buone maniere. Vedi? Questa? Questa? È la sacca che contiene il cervello. Che buon odore. Sì, è vero. Perché non ne assaggi un pezzetto? Sì, grazie. Vorrei proprio un po' di vino. È buono. Va bene. Ma solo un goccio. Allora? Giovanni, questo è un cattivo vero, secondo lei? Oh, per Marco, ero meravigliato fino adesso di non averlo ancora sentito. Per me è il massimo della cattiveria. No, abbiamo aspettato di avvicinarci all'ora di pranzo, così almeno il cervello fritto dell'essere umano vivente, preso e cotto lì per lì, dava un senso di maggiore anticipazione all'auto e meritato pranzo dei nostri ascoltatori. Che tra l'altro quello del vitello è buonissimo, quindi c'è anche un senso, perché il cattivo vero deve essere perverso e sadico. E mi mancavano questi due aggettivi, della perversione nella cattiveria e nel sadismo, perché se no uno non è cattivo veramente, perché non deve far terrorizzare la sua vittima. Sì, qua entriamo in un territorio molto difficile da sondare, questo che all'origine è uno psichiatra, quindi è un profondo conoscitore, Hannibal Lecter, della psiche umana. Arriva poi a depezzare un cervello di un essere vivente, scoperchiandogli la calotta cranica, prendendo pezzo dopo pezzo e friggendoglielo sotto gli occhi, avendo accuratamente attenzione, non toglie nulla che possa impedirgli le funzioni vitali primarie. Non sono d'accordo sia un cattivo assoluto, su questo con Giuseppe Sanzonna abbiamo avuto una piccola discussione nell'intervallo, perché è una cattiveria che è troppo supportata dalla genialità. Quando la cattiveria è troppo appoggiata alla genialità, si comincia a entrare in una zona difficilmente sondabile, in cui un essere umano si sente limitato nel definire quanto il male assoluto poi sia qualcosa che noi semplicemente non riusciamo a concepire. La scena più stupefacente, infatti, è quando lui entra in sintonia empatica totale con Jodie Foster solo annusando l'aria, no? Oltre l'aria, dice, sento l'odore della tua fica, è testo, va detto. A parte i riferimenti testuali così sempre ordinati, poi si di pagina. Questo dice. A parte quello, però c'è l'empatia molto forte, riconoscere quasi alla Sherlock Holmes tutta la vita precedente di Jodie Foster, quindi c'è un'umanità di fondo, schizofrenica, perché poi quando invece si tratta di mangiare il fegato con dell'ottimo Chianti non si tira indietro Hannibal Lecter, però questo essere scisso. Tu, dicendo questo, ti avvicini alla giustificazione che teneva in piedi e ancora tiene in piedi nei rigurgiti nostalgici, l'ideologia nazista, che sia qualcosa di non concepibile e parametrabile l'essere umano banalmente normale, perché assume una dimensione talmente epica, eroica e lontana, in cui anche la crudeltà fa parte del gioco. Infatti un ascoltatore cita il film di Spielberg, Schindler's List, che è un film che è l'unico film che non sono riuscito a vedere fino alla fine, perché è veramente soffocante il senso di atrocità di essere vittime, senza nessun tipo di possibilità di assoluzione o di pietà. Quando il nazista spara nella folla dei deportati, uno dopo l'altro, li uccide, senza nessun tipo di motivo, già erano lì destinati a morire. Ti rendi conto che non c'è nulla da fare, sei entrato in una dimensione in cui non puoi più gestire nulla del tuo tempo, della tua integrità, del tuo pensiero. Il male ti entra in ogni poro della pelle. In questa direzione più estremo e sistematico, Salò di Pasolini, che appunto traspone il romanzo di Sade delle 120 giornate di Sodoma nella Repubblica di Salò, quindi in pieno nazifascismo, e quindi connota questi personaggi di una cattiveria messa a tavolino, codicizzata, trasformata in qualcosa di sistematico. Ma sai qual è il limite di quel film? C'è un compiacimento partecipativo, non è distaccato che lo compie. Ci sono alcune scene di coprofagia, di cattiveria gratuita, in cui si sente la vena di lussura di chi le gira, e quello non mi è piaciuto. Ma quella è una perversione individuale dell'autore, che però nel film diventa perversione fatta dal potere, cioè il potere... Dice giustamente, intanto torniamo alla cattiveria, non ce la meniamo troppo, sennò sì. È cattivo fare queste pippe da Cineforum anni 70. Mauro, ci riporti un po' alla realtà. Buongiorno, allora, due cose brevissimamente. Una riguardo all'iconografia del cattivo. A me piaceva molto Jack Cody, De Niro... in Promontorio della paura, probabilmente non era un cattivo assoluto perché c'era una genesi che spiegava questa cattiveria, però iconograficamente mi piaceva il corpo coperto di tatuaggi, i capelli lunghi, untuosi, molto muscolari, insomma, diciamo, mi piaceva, ecco, come immagine. Poi io, un po' cattivo credo di esserlo, cioè io mi definisco un installatore di tagliole emozionali, cioè io praticamente mi avvicino alle persone, creo una sorta di rapporto, di empatia con queste persone. Poi quando queste persone cominciano a, in un certo senso, a fidarsi di me, comunque a fare affidamento su ma come me, fanno a fidarsi di lei? Scusi, mi spieghi, Mauro. Come fanno a fidarsi di lei? Ma non so, attraverso una serie di meccanismi, creo aspettativa, creo fiducia. Poi a un certo punto... Ma qual è il suo fascino, Mauro? Cosa si illude di avere? Ma in realtà non potrei definirlo fascino, cioè mi è capitato... Lei si approfitta di poverini, di persone con delle instabilità palesi, delle debolezze... Sì, cattiva, realtà... almeno dica questo, se la prende con dei poveri disgraziati che non hanno altro nella vita... Diciamo che è una condivisione di patologie, nel senso che anche io credo di essere affetto da varie patologie, per cui in un certo senso... Nessuno di noi ne è esente, però in questo particolare diciamo che se dovessi individuare la sua cattiveria, dato il suo evidente poco spessore carismatico, si va a prendere proprio poverini, delle persone che già sono state bastonate alla vita, e le illude che poter avere un altro misero appiglio. Quando cammino per le strade ho sempre... la sensazione che qualcuno mi stia seguendo, ma sono invece io che inseguo me stesso, silenzioso, ma io lo sento. Sì, spesso ho l'impressione di correre dietro me stesso. Allora voglio scappare, ma non posso fuggire. Devo uscire ed essere inseguito, devo correre. Giuseppe, velocemente, questo chi è? Questo è Emma il mostro di Dusseldorf, lo splendido Batrace con gli occhi morfinizzati, Peter Lorre, che è appunto questo psicopatico che uccide, violenta delle bambine, e che viene processato in questo finale da una turba di criminali che lo processano, appunto perché scossi dalla polizia che cerca fra di loro il colpevole, invece il colpevole è una persona apparentemente normale, e quindi fa questa confessione. Lui non è in casa quando uccide, lui è abitato da questa forza maligna che lo pervade e lo porta a uccidere, insomma lo porta... Un vero cattivo però non direbbe mai questo, non si cercherebbe assoluzione dalla propria cattiveria, anzi ne sarebbe compiaciuto, sono stato io perché così è, perché mi piace, perché sono crudele. Giorgio Cosetti, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Adesso intanto ci salutiamo, poi avremo vasto tempo per trattare. Lei è direttore del Courmayeur Noir in Festival, che si è tenuto dal 5 all'11 dicembre, è finito domenica, il Noir Fest. Io immagino che, avendo voi fatto una rassegna della fiction del cinema noir, avrete una aggiornata categoria di cattiveria. Noi stiamo cercando disperatamente di individuare negli esseri umani, ma abbiamo pochi e scialli e squallidi esempi di vera cattiveria. Se lei potesse eleggere dei cattivi assoluti nella sua rassegna, chi mi citerebbe? Se guardo all'intera storia del cinema, sono costretto a farvi tornare indietro nel tempo e leggo a cattivo assoluto, perché è il più contemporaneo di tutti, il dottor Mabuse, di Fritz Lang. È vero, perché il dottor Mabuse maneggia la finanza, maneggia le menti, maneggia la società, esattamente quello che sta facendo la grande finanza di oggi. E anche a delle ascendenze misteriosofiche che assomigliano molto alle attuali classi dirigenti. Ipnotiche. Sì, sì, è un gabinetto alchemico, necromantico, massonico. Personaggio straordinario. Sì. E invece, andando al Festival di Courmayeur, c'è un aggiornamento, c'è un passo avanti nel noir della figura della cattiveria, di ciò che ci terrorizza. Beh, noi di cattivi assoluti, per forza di cose, cerchiamo di metterne in fila e di guardarli in faccia, cosa che invece in genere il cinema e il racconto e la realtà non fanno abbastanza spesso. È inutile che faccia riferimento ai film o a un film singolo di questi giorni visto, perché non li avete ancora visti, nel senso che stanno per uscire, ma insomma il cattivo assoluto del film In Time di Andrew Niccol, che è un mondo futuro in cui il tempo a disposizione di vita è la regola orwelliana del potere, per cui gli umani fino a 25 anni crescono, poi hanno in dote un anno di tempo per vivere e poi muoiono, ma questa banca del tempo è a disposizione dei ricchi, che invece possono acquisire più punti e vivere molto di più. Beh, fantastica come formula, è vero, è molto, molto legata alla contemporaneità in realtà. Ecco, questo è un film che vedrete presto, il film del regista di Gattaca, e sicuramente è un esempio di cattiveria assoluta, perché sfruttare la vita e il tempo degli altri è straordinaria come privilegio e pericolo. Oppure penso a un film con cui noi abbiamo aperto, che si chiama Margin Call, anche questo sta per uscire, con Kevin Spacey, che è un cattivo contro se stesso, perché è il direttore di una banca d'affari di investimento di Wall Street, che a un certo momento decide, sapendolo in anticipo, quale sarà il momento utile per la speculazione, per il crack economico. Beh, avete scelto una rassegna di abiezione che sembra scritta sulla contemporaneità, è fantastico questo. Senta, Gosetti, ci fermiamo soltanto un istante per dare le informazioni del traffico. Resti in linea con noi, perché poi ci aggiornerà su quello che ci dovremmo aspettare di cattiveria da qui ai mesi prossimi. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Dopo tanti anni sono ancora in questa sedia. Jane, non senti una certa responsabilità? Guarda che io sto cercando solo di chiarire qual è la situazione. Tu non potresti fare tante stramberie se non stessi su questa sedia! Ma ci stai, Blanche, ci stai in quella sedia! E di un po', quali sarebbero le stramberie che ipoteticamente io farei? Beh, come prima cosa, non dovresti lavorare tanto. Anzi, io stavo pensando che magari Elvira potrebbe venire più spesso. Oppure stare fissa qui con noi. Non ci serve Elvira. 800240024 Giuseppe Sansonna, perché nella rassegna dei cattivi ha messo Baby Jane? È un discorso fra una rivalità eterna tra due sorelle prese vecchie, e si capisce in realtà quella che sembrava buona era cattiva. Ma ti sembra un esempio di crudeltà? Beh, qui c'è l'inferno del quotidiano, in questa penombra perenne, questa Bette Davis che ha la voce sbiascicata della grande Rina Morelli, questo mascherone bistrato alla Totò e tiene i boccoli come quando era da piccola una bambina prodigio, e quindi ha tutta la cattiveria del tempo che passa. Cosa c'è di più crudele dello svanire, del dissolversi del tempo? È forse lì la vera cattiveria, il fatto di essere caduchi, non imperituri, ecco. Insomma, questo è questo rapporto con la sorella paralitica, che però si rivelerà poi essere che è molto più perfida e schifosa di lei, feroce. Un richiamo tra l'altro alla biografia delle due attrici, di Bette Davis e Joan Crawford, che erano veramente crudeli nella vita, quindi messe in scena da Aldrich sapientemente in questo appunto inferno strindbergiano. Un ascoltatore su Facebook mi cita Hostel. Beh, in effetti Hostel è vero, è la creazione di una macchina di profitto che fornisce, affitta dei loculi, dei garage a normalissimi esseri umani che li prendono per fare a pezzi, tagliuzzare, mangiare, sminuzzare, viscerare altri esseri umani. È la versione pop di Salò Sad di Pasolini, se vuoi, appunto, qui questi professionisti, che è una sorta di metafora estrema anche del turismo sessuale, dell'abiezione occidentale di, appunto, di cambiare identità andando in un altro paese e poter abbandonarsi alle perversioni più abiette, più squalide, sistematizzate anche con una sorta di pacchetto vacanze, insomma, se vuoi. Poi naturalmente io passerò per il cattivo dei cattivi, sono argomenti tabù, intoccabili, come quello del cuore degli animalisti viscerali radicali. Già mi scrive un ascoltatore, dici stupidate, e i suoi gatti fanno parte della sua famiglia come gli esseri umani, quindi non dovrei nemmeno osare di dire che chi maltratta animali è un povero malato di mente. Ma noi ci siamo accaniti contro quelli che fingono di essere a favore di animali e poi si eccitano mettendo su Facebook i gatti spiaccicati con le viscere. Sì, ma sono argomenti su cui non esiste possibilità di mediazione. Sono quelli veri, meglio sorvolare. Giorgio Cosetti, ricordo, direttore del Courmayeur Noir Festival, che si è tenuto dal 5 all'11 dicembre, però ci sta facendo un elenco della cattiveria nei giorni a venire. Io vedo che da quello che lei ci ha appena detto, Cosetti, ormai il cattivo inteso come visceratore, come bassa macelleria, non fa più parte della contemporaneità. Si vanno a toccare punti sensibili che vanno oltre il terrore, appunto, di essere feriti fisicamente. Io spero proprio di sì, perché appunto le estremizzazioni in genere hostel o in genere show sono sicuramente dei grandi vellicatori di una parte di noi, mentre il noir in sé ci ha detto da molti e molti anni una cosa secondo me più profonda e più micidiale, e cioè il vero grande cattivo è, se volete chiamiamolo così, il destino, cioè quella forza motrice micidiale schiacciasassi che a un certo momento spinge anche il più normale, il più buono di noi dalla parte, chiamiamola così, dall'altra parte della strada. Non voglio nemmeno dire sia quella sbagliata, ma certo è quella del crimine, della illegalità, del delitto, della truffa, dell'approfittarsi degli altri. E non è che questo sia uno scarico di responsabilità, ma certo noi siamo stritolati da una macchina, ce l'ha detto Alfred Hitchcock in uno dei suoi grandi film sulla cattiveria, come La finestra sul cortile, ce l'ha detto Patricia Highsmith, ce lo dice, penso al uno dei due vincitori del grande premio per la letteratura che noi diamo, che è il Raymond Chandler Award, e quest'anno insieme ad Andrea Camilleri è andato a un greco. Questo greco è uno scrittore molto diffuso, lo edita in Italia Bompiani, Petros Markaris. Nel suo ultimo romanzo, che si chiama Prestiti scaduti, il cattivo, quello che fa uccidere, non spiegherò di più, tagliando le teste, una certa serie di bancari che girano per la Grecia, è in realtà un ex atleta dopato che si vendica, essendo diventato molto ricco, del doping moderno. Il doping moderno, secondo lui, è la finanza mal gestita, e quindi si interpreta nel ruolo di giustiziere di questa deriva che sta trascinando la Grecia. Vedo che è molto presente questo tema della finanza e dell'economia nel noir contemporaneo. Noi registriamo evidentemente questo senso, oltretutto di una finanza che non controlliamo e di cui non sappiamo nulla, non conosciamo il volto, ecco perché prima pensavo alla Muse, ci sta fortemente alimentando l'inconscio. Aggiungo una cosa, io dirigo questo festival da molti anni insieme a delle meravigliose signore. Le signore, come è noto, sono dark ladies per eccellenza. Attualmente lo dirigiamo insieme a Marina Fabbri, ed è secondo me un equilibrio perfetto, perché ciascuno di noi può guardare nell'altro, anche nelle differenze di sensibilità dei due sessi, la bramosia e l'attrazione che la cattiveria e il male hanno. E io cattivamente devo interromperla, sennò la sigla ci taglierà. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie Giorgio Cosetti, a domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.